Commissario Montalbano. L'odore della notte di Andrea Camilleri. Sceneggiatura in 10 puntate di Francesco Bruni e Salvatore De Mola. Regia di Alberto Sironi. Ottava puntata. Montalbano e Augello, dopo un lungo prova e riprova, arrivarono da parte di mare a Punta Pizzillo, dove il commissario, in mattinata, era stato dalla parte di terra. La parete della scogliera s'alzava senza una sporgenza o una cavità. Montalbano sperimentò quanto fosse difficile mettersi la muta a bordo di un gommone che filava su un mare che tanto calmo non poteva dirsi. Ecco, dovrebbe essere qua. Aveva un cuore d'asino e uno di leone. La gana di andare a controllare sott'acqua, se aveva visto giusto, era fortissima, ma altrettanto forte era l'impulso di lasciare fottere tutto. Certo, non contribuiva la giornata. Il cielo era tanto nivoro da fare una luce quasi notturna. Il vento era diventato freddo assai. Allora? Stette a così per qualche minuto. Poi, quando sentì che il battito del cuore gli era tornato normale, se ne calò nuovamente. Era sotto di 5 metri. Diresse la luce ancora più in basso, sussultò e non credette a quello che vide. L'emozione gli fece nescere fuori l'aria dai polmoni. Trovato niente, triglie, saraghi. Ho una botta di culo terribile, vedi? La macchina è proprio qua sotto. Ma stai scherzando? Scendo a controllare meglio. Aspetta, Salvo! A 3-4 metri, ancora più sotto, c'era, completamente incasciata tra la parete e uno scoglio bianco, la carcassa di un'automobile. Il ritrovamento dell'auto di Emanuele Gargano è avvenuto in seguito a una telefonata anonima pervenuta ieri sera alla questura di Montelusa. Come potete vedere, le operazioni di recupero sono ancora in corso, però intanto i sommozzatori hanno riportato in superficie il cadavere di un uomo imprigionato nella carcassa. A questo proposito vorremmo sentire il dottor Guarnotta, titolare dell'indagine su Gargano, che fra l'altro ha ricevuto la segnalazione anonima. Dottor Guarnotta, è stato identificato con certezza il cadavere? Un'identificazione ufficiale ovviamente non c'è ancora, ma possiamo affermare che si tratta con buone probabilità di Giacomo Pellegrino, un collaboratore di Gargano. C'erano altre persone nell'auto? Nell'abitacolo no, ma non è escluso che possa esserci stata una seconda persona, che molto probabilmente nell'impatto dell'auto con l'acqua è stata sbalzata lontano. Potrebbe trattarsi di Gargano? Potrebbe. Potrebbe, grazie dottor Guarnotta. Aspettando il prosieguo delle ricerche, sempre pronti e sempre primi. Ecco, e tu sei riuscito a capire come la pensa Guarnotta? In trasferta, Niccolò Zito. Guarda che c'è poco da capire, Guarnotta parla chiaro, almeno in privato. In pubblico non si sbilancia perché lo ritiene prematuro. Insomma, secondo lui, Gargano ha pestato i piedi alla mafia. O direttamente perché si è fregato i soldi di qualcuno, o indirettamente perché ha invaso un territorio dove lui non doveva né zappare né seminare. Ho capito, ma anche se fosse andata così, mi spieghi che cosa c'entrava quel poverazzo da Pellegrino? Che perché Pellegrino ha avuto la disgrazia di trovarsi insieme a Gargano. Sì, buonasera. Ma come no? Secondo Guarnotta li hanno trovati insieme e perciò li hanno sparati. E poi li hanno infilati dentro la macchina e li hanno catafottuti a mare. Anzi, secondo loro, è questione di ore che trovano pure il cadavere di Gargano, se la corrente non l'ha portato in Tunisia. E a te te convince? No. Oh, ma io mi chiedo, ma come faceva questa benedetta mafia a sapere con un giorno d'anticipo che Gargano non avrebbe tenuto fede ai propri impegni e quindi ad ammazzarlo? Io capisco se l'avessero ammazzato uno o due giorni dopo, ma un giorno prima mi pare come minimo strambo, no? C'è ragione. E c'è un'altra cosa stramba. Tu come me lo spieghi che Pellegrino e Gargano si trovavano soli, insieme, a quell'ora di notte, in un posto che ci si va solo per fottere? A me non mi risulta che erano No, questo invece dovrebbe risultare. Ma sì? Eh sì. Minchia. Appena arrivato in questura, Catarella gli passò una telefonata dicendo che la telefonista voleva restare ignonema. La voce era quella roca alla Marlene di Michela Manganaro, la carogna, che gli chiedeva di incontrarla immediatamente. Si ricordava benissimo la strada. Sei tornato? Che mi volevo dire così urgentemente? Ma devo andare a Palermo un paio di giorni a dare un po' d'esami. E allora la volevo incontrare prima. Le devo dire una cosa. Che mi deve dire? Quanta fretta. Che esame va a dare a Palermo? Se mi resta tempo ne darò uno, commissario. Perché? Che altro ha da fare? La picciotta si stirò come una gatta. Il commissario passò un braccio attorno alle spalle di Michela. Vieni. Ma che è impazzito? Cosa crede? Vaffanculo. Ci sono cascata. Avrei dovuto lasciarti continuare per vedere come ti cavavi d'impiccio. Me ne sarei cavata esattamente come l'altra volta quando hai tentato di baciarmi. E comunque ero sicuro che avresti reagito così. Ti piace tanto provocare? Sì. Come ti piace fare il casto Giuseppe? Tutte le aveva sta picciotta. Manco l'intelligenza le mancava. Pace. Pace. Le vuole dire veramente qualche cosa o ti vuole solamente procurare spasso? Metà e metà. Stamattina, quando ho sentito che Giacomo era morto, sono rimasta impressionata. Come è morto? Mi hanno sparato in faccia. Vedi, ci sono un sacco di cose che non mi tornano. Sentiamo. Innanzitutto, perché la macchina di Gargano è stata trovata qua? I casi sono due. O l'ultima volta che è stato da noi l'ha lasciata Giacomo. Oppure Gargano è tornato. Ma perché sarebbe venuto qui rischiando tutto? Vai avanti. Ancora, ammettendo che Gargano fosse con Giacomo, perché incontrarsi in macchina come due amanti clandestini? Perché non nell'albergo di Gargano, in qualsiasi altro posto più sicuro? Io penso che le altre volte non si erano incontrati in macchina. Bene, che Gargano era avaro. Come sai che Gargano era avaro? Beh, avaro no, ma tirato sì. Una volta mi ha invitato a cena. E gli si leggeva in faccia lo scanto che scegliessi i piatti più costosi. Alla fine si lamentò del conto. Però, una sola volta, faceva parte del suo sistema di seduzione. Ci ha portato magari Marastella una sera. Figurati che il giorno dopo lei era completamente incionata, non capiva più niente. Ci aveva un sorriso felice. Ah, la sai una cosa? Dimmi. Marastella ha ricambiato. L'ha invitato a cena a casa sua, a una villona appena fuori il centro di Vegata. Ci abitava con i genitori, adesso ci sta da sola. Ma è vero che Maria Stella continua a pagare l'affitto e il telefono dell'agenzia? Certo. A soldi? Qualche cosa il padre deve avergliela lasciata. Pensa voleva pagarmi lei di tasca sua i due stipendi arretrati. Poi Emanuele me li rimborsa, ha detto. Ed è diventata tutta rossa. Poverina stravede per quell'uomo. Non vuole arrendersi alla realtà. E secondo te qual è la realtà? E nella migliore delle ipotesi Gargano se la sta scialando in qualche isola della Polinesia. E nella peggiore che se lo stanno mangiando i pesci. A Palermo vado a dare tre esami. Auguri, fammi sapere come sono andati. Va bene. Ciao. Ciao. Avanti. Buongiorno, sa. Oh, Mimì, dove sei stato? E dove sono stato? A fare il mio dovere. Saputa la notizia, mi sono precipitato sul posto e mi sono messo a disposizione di Guarnotta, secondo le direttive del nostro caro questore. Ho fatto bene. No, hai fatto benissimo. Hanno trovato il corpo di Gargano? No, sono scoraggiati. Con tutte le correnti che ci sono in zona, il corpo può essere arrivato in Tunisia a quest'ora. Avanti! Scusasse, commissario, mi scappò. Oh, Fazio, vieni, vieni. Porto carico. È carico da 11. E accomodati. Allora, il primo di ottobre dell'anno passato, sul conto di Pellegrino, è arrivato un bonifico di 100.000 euro. Altri 100.000 sono arrivati il 15 di gennaio di quest'anno e 150.000 il 7 di luglio. In tutto fanno 350.000 euro. E chi gli faceva questi bonifici? Emanuele Gargano. Emanuele Gargano? Minchia. È dalla banca dove teneva il suo conto personale, non da quella con la quale travagliava per la Remida. E la volete sapere un'altra cosa? Ogni volta che Pellegrino riceveva un bonifico, il giorno appresso versava un po' di soldi. Parte all'agenzia che gli ha venduto il villino e parte all'impresa che glielo sta ristrutturando. Esatto, commissario. E allora, signori miei, adesso la domanda principale è: perché Gargano versava dei soldi a Giacomo Pellegrino? Il commissario Montalbano, l'odore della notte. Con Luca Zingaretti, commissario Montalbano, e Michele Gammino, voce narrante. E con Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Roberto Nobile, Angelo Russo. Musiche originali di Franco Piersanti. L'odore della notte di Andrea Camilleri è pubblicato da Sellerio. Posta elettronica sceneggiato @rai.it.